Non che io sia stufo di Dear Flies Love Spider, assolutamente no, penso che mai mi stuferebbe quella canzone, però ho voluto farvi conoscere una faccia diversa da Fire on the Bright Sky per The Low Lows. Ho fra l'altro letto che verranno in Europa nell'inizio di primavera ed è possibile una data a marzo in Italia, in una città e in una location ancora non ben definita. Se ci sarà, e sarà una delle città che tipicamente vengono coperte con le promozioni legate ad Eclettica, noi ci saremo, ok? E quindi voi potrete vincere biglietti scrivendo giulio@radiorockfm.com. A questo proposito, questa settimana vincete Marco Fabi alla Salumeria della Musica l'11 di dicembre, ma soprattutto potrete andare a vedere gratuitamente Mischenichi al Sintetica di Firenze il 13 di dicembre e tornarvene a casa, se siete i primi tre a scrivermi, con l'intero Collision Time, con l'intero album. E a proposito di voci femminili, ce ne ascoltiamo una nuova che proviene dalla stessa città dei Low Lows, da New York City. Nuova relativamente, perché il primo disco io me lo sono perso, non mi sono accorto del suo passaggio, faccio ammenda di questo. Lei si chiama Megan Hickey, però si presenta con uno pseudonimo, The Last Town Chorus, e Wire Walls è il suo nuovo album, uscito ormai da circa un mesetto, infatti la data di pubblicazione è il 23 di ottobre. Wire Walls, in cui continua con il suo modo di cantare e il suo modo di suonare la lap steel guitar. Noi ce l'ascoltiamo con una cover, non ve l'annuncio, nel caso non la riconosciate fate appello alla playlist. Gonna

Questa è Eclettica, una trasmissione radiofonica, o per meglio dire un'atmosfera, a cui contribuiscono musica, spezzoni di film e incipit letterari. Spezzoni di film che fra l'altro questa settimana rappresentano un po' un'eccezione, perché o erano film italiani, ovviamente in italiano, o storicamente film in lingua originale. Quest'oggi, piacendomi molto il testo, i tagli che io riesco a fare ai vari spezzoni, ho deciso di puntare sul testo doppiato, la versione doppiata di un film che fra l'altro anni fa era già comparso in originale. Penso avrete riconosciuto i dialoghi di Pulp Fiction che stanno caratterizzando le parti di Eclettica di questa settimana. E poi abbiamo fatto un salto indietro nel tempo, un po' meno rispetto al solito, nelle playlist del passato di Eclettica. Infatti siamo andati indietro solo al 2003 e siamo tornati a Austin, nel Texas, città in cui ultimamente ci ritroviamo spesso a passare. The Way We Get By è il brano che è stato quest'oggi oggetto di profumo di Eclettica da parte degli Spoon. E poi sono tornati i Sassaresi, primo chef del cosmo, gli Chef con Estasi Pura. E proseguiamo con musica che soprattutto dal vivo rende tantissimo, ne ho avuto riscontro, purtroppo essendo andato solo la serata sbagliata, la sera dopo, che non era una serata sbagliata in assoluto, perché c'è stato un concerto che mi è piaciuto, quello di Pier Sfaccini, però la sera prima, la Casa 139 di Milano, e sto parlando di settimana scorsa, mi è stato detto che c'è stato uno dei più bei concerti nella storia della casa, sia come esibizione della band sia come partecipazione del pubblico. Sto parlando degli irlandesi The Frames, che già ci eravamo ascoltati nelle scorse settimane con questa People Get Ready dal loro ultimo album. People all get ready, 'cause we're tearing down the stand. Build what's got unsteady and see it through with newer hands. And what has gone between us is a lot. There's a lot. And he'll be there to clean us when you're not. When you're not. And people all get ready, 'cause we're breaking down again. Rebuild what's got unsteady and see it through with wiser hands. And what has gone for us is a lot. There's a lot. And he'll be there to ignore us when you're not. When you're not. We have all A volte, quando le chiedevano se avesse fratelli o sorelle, Eileen Holland doveva pensarci un po' prima di rispondere. Alle elementari, Eileen giocava ai quattro cantoni con le amiche durante l'intervallo e quando scoppiava una rissa nell'angolo opposto del cortile, di solito a restare con la faccia schiacciata contro l'asfalto era il fratello minore di Eileen, Louis. Eileen e le sue amiche continuavano a far rimbalzare la palla da un quadrato all'altro. Questo era l'incipit di Forte Movimento di Jonathan Franzen e questa seconda parte si chiude con un bel esordio che arriva da Barcellona, The Gurus. Until morning, when the light shines in my eyes. eclettica. Fine della seconda parte.